5F. Ascolta e rispondi. Esther, hai una penna? Sì, ce l'ho. Claudio, hai una macchina? Sì, ce l'ho. Stefania, hai un foglio? Sì, ce l'ho. Elena, hai un numero di telefono? Sì, ce l'ho. Sandro, Rosa, avete una mappa? Sì, ce l'abbiamo. Mina, Rosa, avete la carta d'identità? Sì, ce l'abbiamo. Ines, Luca, avete un CD? Sì, ce l'abbiamo. Silvia, Sofia, avete una borsa? Sì, ce l'abbiamo.